Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, aïe, aïe. A forza di parlare di crisi, abbiamo forse trascurato un elemento importante di questa crisi. Quando cominceremo e saremo tutti coinvolti dal necessario stringere la cinghia, ci sarà qualcuno che probabilmente ci guarderà con occhi imploranti, facendoci capire che manca a lui qualcosa. Saranno tutte le persone accanto a noi che avranno meno strumenti lussuosi, costosi per poter giocare. Noi ci troveremo di fronte al fatto, dovremo reinventarci e ritrovare le antiche maniere per passare piacevolmente il tempo. Noi spesso siamo occupati dei giochi perduti, di come l'infanzia una volta passava piacevolmente il proprio tempo, quando a disposizione c'erano soltanto pochi strumenti di uso quotidiano, tappe di bottiglia, cartuccelle, cose simili. Abbiamo parlato come dei residui di un passato che mai più sarebbe tornato, come qualcosa di arcaico, di lontano, qualcosa che ci ricordava tempi carezzevoli, momenti passati che mai più sarebbe ripresentato in un nostro quotidiano e presente è costellato di PlayStation, di costosissime attrezzature per passare il tempo, la cui consultazione nel manuale di istruzioni occuperà molto più tempo del tempo dedicato proprio all'aspetto ludico. Beh, oggi, senza fare funeste previsioni o profezie che probabilmente o sicuramente o facilmente o perlomeno ci auguriamo mai avranno la loro necessaria attuazione, però forse vale la pena ancora una volta, visto che ci troviamo in un periodo in cui di giochi, di giocattoli e di tempo libero da passare pigramente, piacevolmente, ne abbiamo molto, in cui possiamo ritornare a considerare quegli elementi passati, ma con un occhio diverso, non soltanto guardandoli come si guardano delle reliquie di un tempo passato che mai più tornerà in un museo, ma come probabili e possibili maniere per dare un senso al nostro tempo, visto che la concupiscenza, la ricchezza sembra dare sempre meno senso. Volevo descrivere un gioco da me inventato addirittura negli anni 50. Mi ero accorto che le formiche nere odiano a morte le formiche rosse. Una volta scoperto un formicaio di formiche nere, trovavo un formicaio di formiche rosse, le raccoglievo e poi le buttavo in un formicaio di oliche nere. Si scatenavano delle battaglie mortali incredibili. L'unico gioco che non ho mai sentito, che quei rare volte che mi è capitato di parlare dei giochi con altri coetanei, insomma, ho 44 anni, quindi è calcio al barattolo, che non giocavamo a Roma, calcio al barattolo, però non ho mai sentito. Alcuni esempi presi dai nostri ascoltatori già precedentemente sollecitati ci danno l'esempio come di necessità si faccia virtù, o almeno si sia fatta virtù in passato. Oggi avremo più a disposizione formicai antagonisti di formiche rosse e formiche nere da mettere in colluttazione, godere della pugna tra formiche. Sulle formiche poi c'erano un'infinità di passatempi, molti irriferibili perché oggi sarebbero senz'altro censurati dall'opinione comune, dalla stretta sorveglianza sul maltrattamento degli animali, ma l'usare una lente, cosa da non fare, solamente un esempio cattivo, ma che una volta si faceva, ad usare una lente o un raggio di sole per giocare a raggio laser, ma di cui ancora non si aveva memoria, non si aveva nessuna conoscenza, ma una sorta di cannone inceneritore, e passarlo su un formicaio, erano dei detestabili passatempi del passato. Prendere a calcio un barattolo, oggi trovare un barattolo per strada abbandonato, sfuggito alle strettissime maglie dell'osservanza, la raccolta differenziata, già in sé sarebbe un delitto. Quindi probabilmente manca la materia prima per gli antichi giochi, manca quella sorta di trascuratezza del nitore, della osservanza delle regole dell'ambiente, dei nostri amici animali, per poter giocare come si giocava una volta. Lo chiediamo all'amico Andrea Angiolino. Andrea Angiolino, buongiorno. Buongiorno a tutti. Noi ci siamo già sentiti l'anno scorso per interessanti puntate su questi giochi, ma ci sentiamo quest'anno con un senso diverso nell'aria. Ricordo che Andrea Angiolino è autore di giochi, giornalista, e assieme a Beniamino Sidoti ha scritto il corposissimo Dizionario dei Giochi, edito da Zanichelli, che è una sorta di memento, di enciclopedia di come si giocava nel passato. Ma non trovi, Angiolino, che oggi comincia a esserci una certa cruda e stringente attualità che farebbe riprendere in mano questa enciclopedia come l'unica maniera per uscire dalla necessità di dover far giocare delle persone e non avere i mezzi poi a disposizione per continuare a giocare come si è sempre giocato nel mondo della tecnologia? Ma io devo dire che effettivamente è un'ottima risorsa, perché fra le voci che abbiamo messo c'è di tutto: sassolini, conchiglie, monete, tappi, sono tutti oggetti che nei secoli si sono usati per giocare. La biglia è un oggetto commerciale recente, ma gli antichi romani usavano le noci, i bambini sui campi di battaglia rinascimentale recuperavano pallottole, i ragazzini degli anni 30 prendevano cuscinetti a sfera di camion ottenuti da qualche meccanico ed erano biglie lucenti e bellissime. Oddio, col cuscinetto si faceva anche il famoso carrozzone per andare per le discese. Anche quello è un bel giocattolo cosiddetto povero, però in realtà pericolosissimo ma meraviglioso, sì. Le macchinette fatte con i cuscinetti a sfera. Ma in effetti sono i giochi più belli, uno dice siamo costretti. In realtà poter giocare a fiori, frutta e città con carta e penna è molto meglio che comprare un party game in scatola che magari scimmiotta il gioco carta e penna, ma il gioco carta e penna lo facciamo con gli argomenti che vogliamo, con le regole che vogliamo, lo adattiamo ai nostri gusti. Alla fine non solo è infinitamente più economico, più portatile, si può improvvisare ovunque anche se mi sono dimenticato a casa le cose necessarie, ma è anche molto più efficace del gioco commerciale. Non so se l'hai mai osservato, Andrea, uno dei luoghi in cui ci sono probabilmente dei minorenni da intrattenere assieme a della popolazione civile che non vorrebbe sentire il loro clamore è lo scompartimento del treno. Oggi, almeno in Italia, si viaggia molto di più in treno perché ci sono le nuove linee super veloci, quindi capita a vedere questi bambini negli scompartimenti che potrebbero usufruire di tutti gli strumenti che tu stai suggerendo, ma in realtà hanno dei loro videogiochi portatili rumorosissimi, noiosissimi, fastidiosissimi. Io poi non è che ne parlo dal punto di vista di un denigratore in realtà la tecnologia, ma non c'è più l'idea che qualcuno possa prendere semplicemente un blocco di carta e una penna e farli giocare con quello. Ma manca a un certo punto, quando è che si è interrotta la catena della trasmissione della capacità di inventarsi giochi con pochissimi mezzi? Ma secondo me non si è mai davvero interrotta, i giochi si inventano o si elaborano dai precedenti ancora oggi. Vengo ora dalle Tribù del Gioco a Palermo, un'iniziativa nelle scuole dove ho incontrato dei ragazzini con cui abbiamo scritto libri gioco, fatto attività nelle classi col gioco, ed erano ragazzini che giocavano, i giochi con carta e penna ancora li conoscono, ancora se li tramandano, magari come piccola sovversione sotto il banco quando dovrebbero ascoltare altro. Però poi, come diceva Dossena, i ragazzini annoiati dalle lezioni in cui il professore spiegava invano le coordinate cartesiane le imparavano giocando a battaglia navale sotto banco. Io spesso incontro bambini e ragazzi e con mio piacevole stupore scopro che il gioco di carte che faceva il nonno dal nonno l'hanno insegnato, gli scacchi l'hanno imparati e continuano a giocare sia giochi tradizionali che giochi con poco o nulla. Oltre al dizionario ho fatto un libro sui giochi da viaggio per Editoriale Scienza che è uscito di recente. Ma quindi esiste una categoria di giochi da viaggio? Sì, appunto, i giochi, in realtà io ho raccolto giochi da viaggio o per altri luoghi, non so, i giochi che si facevano con gli stuzzicadenti al ristorante quando il Galateo permetteva di poterli usare. Oggi toccare uno stuzzicadenti se ne tacciati di cafoneria, ma anche giusto, anche abbastanza. Sentiamo qualche altra testimonianza di ascoltatori, poi andiamo avanti. Mi interessa le localizzazioni e le particolarità dei giochi legati al luogo. Schieduno prendeva dei tappi e metteva il suo ciclista preferito incollato dalle figurine, si incollava sul tappo, si faceva un circuito per col gesso e poi a stecche chi usciva ritornava indietro fuori. E così si facevano giochi molto. Noi giocavamo molto alle figurine lì perché avevamo il vantaggio di avere il marmo dei marmisti del Camposanto, e quindi c'era anche i depositi, ci sono tuttora i depositi delle pietrone del municipio. La ricerca disperata di andare a trovare delle pietre levigate su cui si potesse disegnare, scrivere, far andare tranquillamente figurine, palline, qualsiasi oggetto che ha bisogno di una superficie piatta. Oggi sembra impossibile, oggi siamo circondati da oggetti levigati, da oggetti su cui si può fare di tutto, scrivere, poi lavare e pulire. Non era così semplice, quindi queste testimonianze danno a prendere addirittura le lapidi dei cimiteri o dai marmisti per poterci giocare sopra. Mi stavi dicendo, Angiolino, i giochi legati a dei luoghi particolari, i giochi da ristorante è interessante, per tenere tranquilli i bambini ci sono alcuni ristoranti che ancora ti danno una tovaglietta di carta con dei giochetti sopra e alcuni ristoranti, è una catena importantissima di cibo, Tex-Mex, ti dà dei colori a pastello e una foglia di carta per far giocare i bambini. Penso che sarà diffuso in tutto il mondo questo uso. Sì, devo anche dire che una volta che c'è una tovaglia di carta o un foglio di carta reperibile in qualunque punto, anche se non ci ha pensato il ristorante, ci possiamo pensare noi a improvvisare una partita tris alla talpa peruviana, a giochi più noti o meno noti. Appunto, ci sono giochi poi di sole parole, di solo linguaggio o di soli gesti. Uno di quelli che ho raccolto in treno è uno strano gioco 007 mimato fra due bambini. L'ho visto fare in uno scompartimento, era una sorta di morra cinese in cui si caricano le pistole, si sparano o si fa scudo, molto carino. Io l'ho preso, raccolto e messo nei repertori e l'ho visto dalla vera pratica di due ragazzini adesso. Ah, quindi uno fa scudo e uno fa la pistola, come diciamo la morra cinese, il sasso. Esatto, in contemporanea uno può caricare o sparare purché abbia già caricato, oppure fare scudo. Chi spara all'altro mentre sta caricando, mentre non sta facendo scudo, lo uccide. È una cosa molto semplice e divertente. Poi c'era tutto un rituale cantilenato, dei gesti molto ampi. E dove nasceva questo gioco? Dove tu hai scoperto questa reliquia? Onestamente io l'ho cercato sui repertori, non esisteva. L'ho visto in uno scompartimento e lo prendo come testimonianza di un gioco moderno, perché poi 007... Dico, qualche ragazzino se l'ha inventato e da quello è venuto fuori il gioco. Esattamente, ed è bello appunto che questa creatività ci sia ancora, perché citavamo la PlayStation. Io posso comprare un gioco per PlayStation e posso giocarlo, difficilmente posso programmarlo o adattarlo ai miei gusti, cosa che invece con i giochi di carte, di materiali poveri, di linguaggio o altro si fa in continuazione, e c'è tutto un progresso dei giochi anche cosiddetti poveri. Si citavano le figurine, il nostro ascoltatore, perché fare uno scambio mercantile di figurine quando uno se le può giocare d'azzardo a decine di giochi diversi? Diciamo che nel gioco tradizionale prevaleva il software, era la parte importante, e ridotto al minimo l'aspetto materiale concreto ci si adattava. Oggi in realtà i giochi si basano su degli hardware sofisticatissimi, e in effetti un ragazzino che gioca con videogiochi dall'età di 7-8 anni, oggi ce n'ha 16-17, ma i giochi di una volta erano molto più affascinanti. Perché? Perché aumentando la tecnologia si impoverisce la storia. Ho un altro ospite al telefono, Giorgio Reali. Vi stiamo recuperando, voi siete una sorta di setta di gnomi folletti che mantenete vivo questa idea del gioco. È una bella lobby pulita e sincera, perché noi non vendiamo niente, cioè Angiolino sì, i suoi libri sono bellissimi, ma noi insegniamo ai bambini a giocare. Poi per il resto avevo accennato che lei è presidente dell'Accademia del Gioco, diciamo, Fondazione del Gioco Dimenticato. Dell'Accademia del Gioco Dimenticato, che a Milano cerca di fare quello che fanno molti altri miei colleghi, cioè di insegnare ai bambini a giocare con le cose semplici. E naturalmente, essendo io poi di Merano, anche se vivo a Milano con la mia ludoteca, giochi che si faceva per esempio nel cortile sul ghiaccio. Una cosa curiosissima, per esempio, che avete presente il curling, quello con le scoppette, sì, con le bocce di marmo. Bene, noi negli anni 50 c'erano ancora i pitali, non so se chi ce li ricordi, vasi da notte. Di latta bianchi. Quelli bianchi smaltati con la righina blu. Esatto, la righina blu non me la ricordo, ma smaltati. Eh sì, quelli più avevano allora, un piccolo guarnizione, esatto, sul bordo blu. Esatto, la sera prima ogni bambino aveva il proprio, andava lo fregava la nonna badando di lavarlo bene, naturalmente, e poi si metteva qualche sasso e del ghiaccio e una bandierina con il disegno del proprio quartiere, e si giocava. No, io ho avuto un attimo di brivido, pensavo che ghiacciassero il contenuto della nonna e usassero. No, anche perché temo che fa fatica a ghiacciare per una questione proprio chimica. Sì. No. Comunque giocavamo a curling con i pitali, ma poi naturalmente siccome da noi si usa molto per esempio giocare nei cortili a hockey, che le stecche sono un po' costose, e noi giocavamo con le scope di casa e una palla di carta che si chiama broom ball, che più che gioco è uno sport, però noi bambini giocavamo nei cortili. Un classico per esempio è la battaglia del non l'orso di neve, come si dice, dell'uomo di neve, pupazzo di neve, e si faceva la pancia, poi sopra ovviamente la testa con la carota, qualche cosa, e si faceva praticamente le due squadre come i ragazzi della Via Pal, dove ci sono 6-7 pupazzi di neve da una parte, 6-7 dall'altra, e vinceva chi a suon di palle di neve riusciva a distruggere le teste dei pupazzi, perché distruggere tutto il pupazzo era un po' complicato, però era meraviglioso andare a colpire questi nostri avversari. Però Giorgio Reali, vediamo di analizzare un po', a me interessa capire, a parte diciamo l'aggressione della tecnologia, del mercato dei giocattoli più elaborati, ma non dipende anche dalla mutazione della topografia dei luoghi in cui si muovevano i ragazzi? Lei ha citato due volte il cortile. Oggi il cortile è una realtà che non esiste più. Non esiste più perché ci sono parcheggiate le macchine, anche se ci sono regole condominiali strettissime, non ci si può far nulla nel cortile. Esatto, adesso però c'è una nuova moda, ma anche a Milano, ma ho notato anche in altre città, che i condomini, soprattutto quelli a 5 o 6 palazzi, diventano dei fortini, cioè da fuori manca solo i sacchetti di sabbia e la garitta, e poi sono dei fortini. Ecco, lì invece, siccome i parcheggi sono tutti sotterranei, lì c'è la possibilità di giocare. Un cruccio mio pazzesco, per esempio, è che ci sono migliaia e migliaia di... Il piano terra dei condomini, giustamente, sono sempre vuoti, ci stanno i motorini di solito, perché per una questione di privacy nessuno vuole abitare al piano terra. Bene, tutti questi spazi, perché nessuno mai col gessetto fa una campana, oppure come citava prima Angiolino la pista delle biglie? È veramente terribile vedere tutti questi spazi che potrebbero essere utilizzati dai bambini, se c'è naturalmente chi insegna a giocare, e i bambini si divertirebbero tantissimo. Però guarda, io vedo che è già un problema nelle città trasformare gli spazi verdi in spazi attrezzati per i bambini. In un quartiere come Prati, un quartiere di Roma popolato soprattutto da anziani, una volta che fu fatto il grande sforzo dal comune di togliere un giardinetto dove c'erano macchine parcheggiate e i rifiuti dei cani che venivano portati a passeggiare, e metterci l'altalena, il giorno dopo i signori del posto misero dei cartelli: si raccomanda di non fare chiasso, non vogliamo sentire il rumore dei bambini. Purtroppo io ti faccio un esempio pazzesco. L'altro giorno faccio dei giochi in un parco, perché i bambini quando hanno giubbetta possono giocare, mi fa: mi raccomando Reali, che non sudino. Ma ti rendi conto, cioè, che i bambini non possono neanche correre perché sennò sudano, oppure la cosa più classica, che non vadano per terra che si sporcano. Cioè c'è questa metodologia dei genitori, che i bambini devono essere asettici. Invece i bambini hanno... Io mi ricordo, adesso non voglio... Dopo veramente rischio l'arresto, ma io ricordo che le ginocchia e i gomiti sbucciati era una... Io avevo perennemente, per anni, croste alle ginocchia e ai gomiti, perché cascavamo sempre. Erano delle medaglie. Ma sì, tornavi a casa, ci mettevano l'acqua ossigenata o il mercurio cromo e finiva lì. Ma comunque, se per caso nevica, pensa che ci sono una marea di giochi che i bambini, dopo aver mangiato per Natale, che si sono divertiti. Per esempio, c'è un gioco molto bello che fanno in Piemonte, nella Bassa, verso Cuneo, verso Carrù, che è il gioco della rana, no? Si chiama rana perché è una cosa che salta. Loro giocano con i soldi, ma naturalmente non si può fare. Ma se si mettono per terra, per esempio, una serie di piatti, quelli fondi da minestra, oppure le ciotole del caffè latte della mattina, 6 o 7, poi dal tavolo i bambini devono tirare di solito o le penne o i maccheroni o le conchiglie, e poi devono ciccare, e vince il primo che riesce a mandare il proprio pezzettino di pasta in tutti e 6 le scodelle. E questa è una cosa banalissima che possono fare tutti. Poi naturalmente non buttate via la pasta, datela in lavata e poi è buonissima da mangiare. Ah, la pasta, figuriamoci se ci... sarebbe mai una madre oggi che accetterebbe di rimettere nella pentola un maccherone rilavato perché è stato usato per giocare? Diciamo che oggi la setticità, che fa parte del progresso e della contemporanea tutela del nostro benessere, ha in parte fortemente compromesso questa capacità di giocare con tutto e giocare per tutto. Lei ha citato i giochi invernali, sentiamo dalla voce di qualche ascoltatore. I giochi si fanno l'inverno, in questa stagione, nel lunghissimo ponte tra Natale e Capodanno. Quando ero da solo giocavo con mucche di legno, così mi facevo le spalle, facevo delle strade, facevo delle cose così. E se no, andavo giù. Quando andavo a scuola, allora lì giocavo finché vedevo arrivare notte, poi via di corsa, perché poi mi prendeva poi la FIFA a venire su. Allora, era così. E poi una volta c'erano tanti bocce, ma ci sono anche adesso tanti che vanno a scuola, però erano tutti del paese i bocce, sai, si giocava lì, non è... Una volta, se dovessero fare adesso i boccia, quello che abbiamo fatto noi, da boccia, sarebbe una cosa, un disastro. Noi a rompere i vetri, fare quelle cose lì. Queste sono voci prese da persone che sono prese la briga di andare a ricercare da generazioni passate quelli che erano i sistemi di giocare, di incontrarsi. E molte volte è difficile entrare nello specifico di questi giochi, rientrare e riprendere il filo. Magari i nostri ospiti sono più esperti in questo. Perché? Perché era diversa l'organizzazione sociale, era diversi sistemi di aggregazione, erano diversi luoghi in cui le persone si incontravano. Gli amici non erano soltanto quelli che accettano un nostro contatto su Facebook, gli amici erano quelli con cui si deve divideva gran parte la giornata, gran parte la vita, gran parte il disagio e gran parte anche delle scappatoie per fuggire da quelli che erano i legami della famiglia, le imposizioni della famiglia. Il gioco era anche sregolatezza e oggi nella nostra necessità e desiderio di contenere tutte le sregolatezze probabilmente siamo persi anche molti giochi. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Tutti chiedono spesso, molto spesso, il Meccano, che non c'è più praticamente, non esiste più, però tutte persone della mia generazione o comunque più anziane. Un altro gioco che viene chiesto spessissimo è tipo il cavallo a dondolo, però poi ovviamente i bambini difficilmente poi ci giocano, quindi viene un altro gioco però sempre richiesto dalle persone anziane. C'è proprio una differenza ormai generazionale. I genitori delle nuove generazioni vogliono cose più tecnologiche e non implicano poi che loro debbano aiutarli a giocare, eccetera. Qualsiasi gioco dove il grande, cioè chi regala, il nonno, il genitore, non debba poi intervenire. Stiamo parlando di giochi del passato, questa è una nostra ascoltatrice che ha un negozio di giocattoli e ci racconta come si evolve la richiesta del giocattolo nei tempi, soprattutto cambia a seconda di chi va ad acquistare il giocattolo. Se vanno i nonni, naturalmente, la richiesta è sui giochi oggi non esistono più. Cercano di riportare in vita, di far riaffiorare, di resumare quello che era il giocattolo che per loro è legato a un ricordo e riproporlo alle nuove generazioni, che è un'operazione molto difficile. Noi questa mattina abbiamo raccolto persone che da varie parti d'Italia svolgono questa funzione indispensabile. Lo fanno per passione, lo fanno per spensierato oltraggio al tempo che stiamo vivendo, oltraggio nel senso di un tempo che vorrebbe sempre un'evoluzione di un gioco, vorrebbe un upgrade continuo che riattribuisce pesantezza e quindi struttura a un giocattolo. Loro invece no, tornano all'essenza del gioco, quando il gioco era fatto soprattutto di una grande inventiva e soprattutto era un grande espediente per socializzare. Abbiamo già sentito Andrea Angiolino, ma sono tutti ancora in linea, che è autore di giochi, giornalista, è autore insieme a Beniamino Sidoti, ricordo, del Dizionario dei Giochi, edito da Zanichelli. Abbiamo sentito Giorgio Reali, che è presidente dell'Accademia del Gioco Dimenticato, e ha parlato di giochi alternativi in un periodo in cui anche fare economia nel giocare può far parte di un aiuto importante al ménage familiare. E abbiamo, come avevo annunciato prima, ospite al telefono Pietro Turano. Buongiorno Pietro Turano. Salve, buongiorno. Turano è un insegnante, è autore dell'Enciclopedia dei Giochi Tradizionali, organizza le Olimpiadi dei Giochi Tradizionali a Cosenza. Ecco, cosa sono le Olimpiadi dei Giochi Tradizionali? Come si strutturano? Intanto io vorrei salutare il mio amico Giorgio Reali, a cui mi accomuna questa grande passione per la riscoperta di questo magico mondo del gioco. Io lavoro giù in Calabria, sono a Cosenza, e noi abbiamo pensato di dare seguito appunto alla pubblicazione del libro che io stesso ho fatto, con una vera e propria manifestazione che è un punto finale di un lungo percorso che ci vede coinvolti con l'intervento nelle scuole, nei comuni, nei paesi di tutta la Calabria, ma anche fuori della regione Calabria. C'è un momento finale poi nel bellissimo centro storico di Cosenza, dove sono coinvolte le istituzioni, dove arrivano questi bambini da tutte le parti per cimentarsi in questa altra Olimpiade, un'Olimpiade diversa, dove sono chiamati a misurarsi, dove abbiamo introdotto un po' questo aspetto anche competitivo. Io vorrei precisare che questi giochi erano poco competitivi ed erano più partecipativi, però questa, la competizione forse è un po' il sale di questa nostra, ecco, magari se ci spiega qualcuna delle discipline che fanno parte di queste Olimpiadi, comprendiamo meglio che tipo di giochi sono giochi molto legati alla terra in cui si producono o universalmente conosciuti? No, sono universalmente conosciuti, perché questi giochi, diciamolo subito, hanno avuto una grande diffusione nel periodo greco-latino, quindi tutte le civiltà che sono venute a contatto. Io ho avuto modo di confrontarmi con un autore inglese, e appunto i nostri giochi, questi giochi, io parlo del tiro alla fune, parlo della corsa con i sacchi, parlo della trottolina, che giù qua nel meridione noi chiamiamo strummolo, che deriva dal termine greco strombos, i greci lo chiamavano strombos, non a caso c'è un vulcano che si chiama anche Stromboli, questa trottolina che è il re dei giochi tradizionali, che è il re anche della nostra manifestazione. Poi c'è il gioco della fionda, conosciuto dappertutto, poi c'è il gioco del cerchio, il cerchio che si spinge con un attrezzo, viene spinto sul terreno e viene inseguito dai bambini, e facciamo delle vere e proprie gare di abilità su chi riesce a guidare, ad indirizzare questo cerchio. Ecco, cos'è che anima questa vostra passione? Perché prima ancora di proporvi ai ragazzi, penso che voi dobbiate fare un lavoro di archeologia del gioco, proprio andare a cercare, lei ha citato fonti classiche addirittura. Ma certamente c'è un lungo percorso prima di arrivare. Noi interveniamo nei paesi, nelle scuole, e presentiamo queste iniziative, presentiamo questi giochi, ma li presentiamo da un punto di vista anche teorico, ma li facciamo vedere, ma spesso li troviamo che sono abbastanza conosciuti. I bambini cominciano ad allenarsi, a prepararsi, chiedono l'intervento dei grandi, ecco la magia di questo modo di giocare, perché permette l'integrazione generazionale, quindi i nonni che si sentono rivalutati in quanto maestri in queste attività. Assumono una competenza inimmaginabile, chiaro. Certamente, sono bravi, quindi per una volta almeno si sentono rivalutati, quindi i nipotini che chiedono il loro aiuto per imparare a costruire e a lanciare la trottolina o lo strumolo, come dicevo prima. Ecco, a parte questi che lei ha citato, ci sono dei giochi particolari proprio legati alla Calabria, alla sua terra, che magari noi non conosciamo? Ma io per la verità ho avuto modo, con questa ricerca che ho fatto, la maggior parte di questi giochi li ho trovati anche di conoscenza di altre regioni, di altre realtà. La caratteristica di questi giochi è che cambiano un po', cambiano nome, sono conosciuti con nomi particolari di quella zona, questo è vero, è un minimo di regole, varia anche da zona a zona, però il gioco indubbiamente, l'origine di quel gioco è comune. Ecco, Andrea Angiolino, visto che tu sei quello che è enciclopedico da questo punto di vista, rispetto ai giochi che ha citato il tuo collega archeologo del gioco antico, Esistono delle sottocategorie, delle diramazioni, delle diverse accezioni a seconda della regione in cui si producono, ad esempio la trottola, la corsa ai sacchi, giochi che ormai fanno parte talmente in maniera viscerale della nostra tradizione che nessuno di noi l'ha mai giocati, eppure probabilmente abbiamo tutti la convinzione di averci giocato. Sì, in realtà appunto molti di questi giochi sono universali anche al di fuori dell'Italia. Alcuni diventano più importanti in certi posti, penso a Napoli dove scugnizzo è quello che fa scugnare la trottola, la manda a cozzare per scheggiare quella dell'avversario, anche se il gioco è universale. Poi ci sono giochi molto peculiari, in questo periodo il gioco del panforte che si fa nei paesi intorno all'Amiata è assolutamente specifico, c'è un lungo tavolo, si lancia un panforte cercando di farlo arrivare il più possibile al bordo opposto del tavolo senza farlo cascare di sotto, vince chi ci riesce e poi vince. Perché è rotondo, è come una rondella, è come una piattella sì, che scorre, poi altrove si fanno rotolare formaggi con la ruzzola, il maiorchino magari in Sicilia, ci sono dei giochi magari di biglie che nei repertori veneziani assumono delle forme particolari perché si fanno su certi bordi di marmo circolari attorno ai pozzi. Per cui a volte le varianti sono legate a cose molto... Comunque c'era una fase importante che gran parte di questi giochi vengono prima costruiti, quindi c'era una fase preliminare, faccia parte del gioco, della costruzione della parte concreta del gioco. E questo sì, è molto bello e fra l'altro ritornando alla crisi mi viene in mente per esempio il Subbuteo che era un gioco molto lussuoso con dei bei figurini basculanti, si trova ancora magari come Zego... con nome genovese per motivi legati alla sua storia. Fatto sta che quando esce nel dopoguerra l'inventore dà dei figurini da montare e addirittura non dà il campo come lo sappiamo noi di panno verde lussuoso, semplicemente dice prendete la coperta che ogni famiglia inglese ha avuto durante la guerra insieme alle reazioni d'emergenza, prendete un gessetto, questo è lo schema, disegnatevelo. E quindi c'è una continuità fra chi gioca a calcio tappo usando i tappi di bottiglia e una pallina di carta, il primo Subbuteo che ancora è un po' da montare e sistemare perché è quello dell'Inghilterra che esce dalla Seconda Guerra Mondiale, e il gioco di lusso magari che nel boom economico viene commercializzato, comprato e tutto quanto, e magari appunto che noi possiamo di nuovo sostituire con un gioco fatto coi tappi, con le porte fatte con strisce di cartone, la reticella del limone fissate sul tavolo da cucina con un po' di scotch. Ma anche i giochi più classici come non so, il domino, per esempio, ho ricordi di domino fatti in casa, ma non per micragna, perché era divertente costruirselo, capire lo schema dei vari punti come andavano messi, e ci si giocava poi lo stesso in maniera divertente, non parliamo poi delle dame disegnate con il gessetto, si perdeva più tempo a disegnare esattamente la scacchiera che per giocare, ma faceva parte anche questo del divertimento. Abbiamo un altro ospite, ma prima di sentirlo andiamo avanti con quelle che sono le testimonianze degli ascoltatori, o quelli che abbiamo raccolto come viva voce di giocatori di antiche maniere di passare il tempo. Tutti vogliono dei giochi per i bambini, qualcosa che sia per bambini più grandi perché i loro bambini sono sempre più intelligenti, sono sempre più capaci, no ma quel puzzle no perché c'ha pochi pezzi, lui è molto più intelligente. Ovviamente tutti questi giochi poi vengono accantonati, non vengono poi usati dai bambini, chiaramente. Questa era sempre la nostra ascoltatrice che vende i giocattoli e che quindi ha un'esperienza personale molto capillare sull'evoluzione del giocattolo. Dicevo, abbiamo un altro ospite al telefono che fa parte, penso sempre, anche se idealmente, la stessa congrega di depositari del segreto dell'antico giocattolo, è Giuseppe Giaccon. Buongiorno. Buongiorno a voi. Responsabile dell'associazione Giochi Antichi, è un'associazione che organizza anche il Festival Internazionale dei Giochi di Strada. Non sospettavamo ci fosse una rete così capillare, ma proficua e interessante, di conservatori di antichi giochi. E quali sono i giochi di strada soprattutto rispetto a quelli che abbiamo citato? Ma intanto c'è una... saluto Angiolino e Turano che... Sì, ho capito, siete tutti una banda, questo l'abbiamo capito. Siete collegati fra di voi. Ma però fate un'operazione oltre che interessante da un punto di vista antropologico, quanto mai utile in questi tempi. Sarete contattati da tante famiglie che nelle necessità di quadrare il bilancio con le manovre economiche dovranno industriarsi anche a far giocare i figli in maniera meno dispendiosa, immagino. Diciamo che la dimensione attuale, contemporanea del gioco in Italia per quanto riguarda il gioco di tradizione, che comprende anche il gioco di strada, è una dimensione sicuramente residuale, però è una dimensione ancora viva. Quando parliamo di gioco, per quanto riguarda anche il nostro tipo di attività, è andare alla ricerca di quella che è la dimensione anche del gioco negli adulti, per cui non solo nel gioco, diciamo, legato più al mondo infanzia. E qui ci sono delle realtà straordinarie, noi abbiamo contato quasi oltre 100.000 giocatori di gioco tradizionale che ancora portano avanti attività ludica in maniera quotidiana, sporadica, comunque nei propri territori. Allora fermiamoci solo un istante, devo dare la linea alle informazioni del traffico, poi ci racconterà quanto sia possibile che ancora ci siano oltre 100.000 persone in Italia che da adulti hanno voglia, desiderio, fantasia e creatività di giocare come si giocava una volta. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Quando noi eravamo piccini e ci stavamo preparando all'esame di terza media, abbiamo inventato un gioco, eravamo io e mia cugina, e siccome mia nonna ci frustava e staccava i rami dei salici perché andasse meglio, era una mania sua, noi avevamo inventato questo gioco cominciando a frustare gli amici che venivano a lezione con noi, a lezione privata. A San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, fanno tutti gli anni la gara dei carri, ossia sono delle tavole di legno con dei cuscinetti recuperati dai meccanici e fanno le gare un po' come le Formula 1, in discesa. Qualcuno avrà aggrottato le ciglia, ma questa è la testimonianza di un'ascoltatrice. Anche loro di necessità hanno fatto virtù. La madre sceglieva accuratamente il ramo di salice più adatto per frustarle, per punirle, per reprimere le loro malefatte, e loro di questo hanno fatto un gioco. Abbiamo vari personaggi, abbiamo capito, legati a una sorta di occulta, segreta fratellanza che in Italia, dalle Alpi alle piramidi, si stanno occupando di mantenere ancora viva la tradizione del gioco, di come si giocava una volta, di come si giocava con poco, di come la fantasia e il desiderio comunque di passare piacevolmente del tempo supplivano ad dispendiose e accurate tecnologie. Mi sono interrotto con Giuseppe Giacon, che ricordo è direttore responsabile dell'associazione Giochi Antichi, che organizza un festival internazionale di giochi di strada. Ci ha detto che hanno classificato 100.000 persone che ancora, se non ho capito male, giocano come si giocava una volta in Italia e poi sono adulti. Giuseppe Giacon. Sì. Quindi la dimensione contemporanea è la cosa che ci ha sempre affascinato, perché noi stessi siamo giocatori, quindi abbiamo una situazione italiana ricchissima, seppur marginale, nascosta, che non ha voce, di persone che giocano. Mi vengono in mente, cominciando anche dei giochi di genere, le donne delle biglie di Farigliano, cioè un gioco di birilli, che hanno trovato delle omonime in Spagna, le abbiamo messe in contatto, sono un gruppo di circa una ventina di donne dai 30 anni in su che continuano a portare avanti una tradizione che era delle loro madri piuttosto che delle loro nonne. E giocano con dei birilli, veramente come si giocavano, si tira la boccia sui birilli e si buttano giù i birilli. Si tira la boccia sui birilli, è un birillo che ha anche nella sua conformazione un'accentuazione diciamo così, del simbolo fallico. Ah, ecco, beh, pareva un gioco per adulti, ecco. Beh, un gioco per adulti che però vengono iniziate anche le bambine più piccole, voglio dire, poi i campionati, i tornei lo fanno cominciare. Io adesso non voglio azzardare letture antropologiche arraffazzonate, ma esiste un passaggio in certi rituali ctoni di pitonesse, di sacerdotesse, che si trasmettevano proprio questa sorta di divinità rappresentata anche da un fallo, era un simbolo di prosperità, di fecondità, quindi non è che c'è nulla di strano al di là di quello che storicamente sappiamo. E queste costruiscono questi birilli di legno falliformi e hanno scoperto che in Spagna esiste una congrega altrettanto fantasiosa e molto più numerosa di donne che abbiamo ospitato anche al nostro di festival, sono aragonesi ma ci sono anche della Catalunya. E la cosa carina è che quando noi le abbiamo incontrate la prima volta, normalmente chiediamo un oggetto ludico in dono per il nostro centro di documentazione. E vi hanno dato un birillo. No, non ce l'hanno dato perché hanno detto: io non posso darti questa cosa che appartiene a mia madre, che appartiene a mia nonna, e quindi, perché addirittura una comunità, quella che era venuta di Bolos di Monreal, ci dava, cioè era una comunità che si trasmetteva i birilli. Può vedere che c'è qualcosa legato proprio a misteri femminili, a qualcosa di veramente antico che affonda le radici in cui, ai tempi in cui il gioco era legato al rituale, non si giocava se non c'era una sorta di sacralizzazione anche del momento ludico. Poi ci sono altri giochi di questo tipo che ricordano qualcosa. Poi c'è un gioco per eccellenza, il gioco italico per eccellenza fino all'avvento del football o del calcio, come lo chiamiamo, era il gioco della palla bracciale, pallone bracciale, palla pugno nelle langhe, con tutte le varie declinazioni italiche. Ricordo giochi che vedevano anche sferisteri con 20, 30, 40 mila persone. Quindi un fenomeno molto esteso fino ai primi del Novecento, fino all'Ottocento, primi Novecento, ne parla di Amicis, ci giocava anche Fenoglio. Esistono ancora delle comunità sparse in Italia, una di queste sta nella parte tra il Grossetano e il Senese, la chiamano Palla 21 perché il numero del punteggio Palla E a distanza di 50 km. E qui è straordinario perché questo gruppo qui sono quasi tutti giovani, uomini e donne, quindi anche il genere si unisce e liberano una piazza, fanno una colletta addirittura se in mezzo a questo campo ideale di gioco cui devono cominciare ovviamente l'attività, c'è un mezzo, c'è una macchina per eventualmente rifondere i danni se succede qualcosa, e decidono di giocare comunque modificandone le regole perché il fine è quello di giocare. E questa è una tradizione che loro portano avanti, stiamo parlando di persone che vanno dai 20-25 anni fino ai 35 anni. Trovo molto interessante quello che ci ha raccontato Andrea Angiolino, ricordo che è autore del Dizionario dei Giochi, edito da Zanichelli insieme a Beniamino Sidoti. Tu avevi memoria o avevi registrato questa sorta di versione per adulti di tanti giochi che consideravamo soltanto relegati all'età fanciullesca? Sì, io appunto sul 21 palla e palla bracciale, tutto quanto, li abbiamo censiti, e devo dire che appunto l'Accademia dei Giochi Dimenticati, il Festival Tocati, l'Enciclopedia di Turano sono sicuramente preziosissimi in questo, ci aiutano a ritrovare una memoria locale, poi magari a interconnetterla come si fa al festival, ci si incontra da terre diverse e si scopre che in posti remotissimi si fanno cose molto simili. È bello che ce ne sia una memoria, perché poi queste tradizioni sono delicate, rischiano magari di sparire nel giro di poco. Io sono andato a inseguire, ho mandato amici sui monti sopra Rovereto a cercare qualcuno che giocasse al dobellone, seguendo segnalazioni di un albergo dove ancora si giocava ogni estate, e purtroppo sono arrivato tardi. Pare che da 2-3 anni non ci si giocasse più, e del dobellone e delle sue regole per ora non abbiamo più traccia. Quindi siete alla ricerca del dobellone scomparso. Esatto. Pietro Turano, so che la clip che abbiamo mandato prima le ricorda qualcosa, visto che lei si occupa di Olimpiadi dei giochi tradizionali a Cosenza, qualcosa della sua sfera geografica di interesse. Sì, hai chiamato poco fa un mio conterraneo di San Giovanni in Viola e parlava della gara del carro, i carretti che vengono costruiti dai ragazzi. Ecco, un altro significato che sta alla base di questi giochi, come attraverso il gioco il bambino va a rappresentare, a raffigurare le attività degli adulti. La costruzione del carrettino, che prevede una progettualità, una realizzazione, non è altro che imitazione dei bolidi, dei grandi, quindi, che vengono rappresentati sotto forma di gioco. Il gioco delle bambole, che le bambine praticavano e praticano tuttora, non è altro che imitazione del mestiere della mamma, che la bambina sarà chiamata poi da adulta a svolgere, quindi con tutte le varie funzioni collegate a questa attività, quindi la bambina che attraverso il gioco comincia ad imparare il mestiere che dovrà fare. Per questo poi nasce Barbie che fa di tutto, perché poi se no non è che deve essere per forza relegata a quel ruolo, può anche scegliere di fare anche altre cose la bambina quando cresce. Comunque questo è molto interessante. Diciamo, la cosa che più mi ha divertito questa mattina è aver scoperto che esiste questa sorta di setta segreta dei recuperatori di giochi antichi. Abbiamo visto che il gioco antico poi non è semplicemente una maniera per intrattenere i ragazzi, ma una maniera anche per mantenere e cementare alcune comunità. Mi ha molto divertito l'idea delle signore che raccolgono birilloni fallici e poi si confrontano con signore di altri luoghi. Beh, abbiamo ancora una volta stabilito che esiste l'improbabile quando la curiosità va oltre quelle che sono le prime schiere dell'informazione. Anche nel campo dei giochi antichi abbiamo scoperto qualcosa che prima non sapevamo. Melog 2.0. D'un tourbillon la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.